de tutti, buonasera. Sono Jorge della Topoli. Vedo qua che siete arrivati tutti al Maradona Party. Questo Maradona Party è un speciale che abbiamo usato Maradona non tanto per celebrare lui, la sua figura, sino per parlare di lui, del sud, cioè sia del sud d'Italia, del sud del mondo, è una scusa. Noi stiamo presentando questo fumetto che sia stato pubblicato in Argentina nel 99, ha avuto un grande successo perché è una critica anche al sistema capitalistico. Diego Armando Maradona come supereroe invade gli Stati Uniti. Voglio presentare stasera Tommaso Labranca, che ha fatto la prefazione del numero uno. Lui è scrittore, ha fatto The Warrior era un coatto per Castelvecchi, Charlton Heston, autore televisivo. Escon. Scusate la pronuncia del mio italiano. No, un nome di Cioè, posso dire la parola di questo fumetto che ha fatto la prefazione. Allora, ciao, che ho fatto questa prefazione al fumetto. Lui mi ha chiamato un giorno dicendo che c'erano questi fumetti argentini che erano molto belli, infatti mi ha fatto vedere tante prime e lo erano. Quindi ho scritto questa cosa su Maradona, che adesso non mi ricordo neanche più tanto che l'ho scritto, e abbiamo fatto poi una bellissima presentazione da Feltrinelli. Io volevo addirittura andarmene dopo due minuti perché era terrificante, perché presentavamo quel giorno due fumetti della Topolini, uno del Martino, e poi invece il Maradona. Naturalmente le preferenze del nostro presentatore erano tutte per l'altro fumetto, che diceva che era algido, era freddo, era critico, invece Maradona, vabbè, è una barzelletta, e quindi ci siamo trattati un po' in questo modo, ti ricordi? Per di più poi l'altro fumetto rappresentato da un signore molto colto, che non... Antonio Baronia. Che non perdeva mai occasione di far pesare questa cosa. Per cui in quel momento il sud del mondo ero io. Cioè, Baronia era il nord, e là era la cultura, il fumetto agito, il fumetto cattivo, invece io ero il sud, Maradona, cioè le tricavallacche e le solite cose. Quindi spero questa sera non sarà così. No, in assoluto. Questa è una serata che proprio... Noi l'abbiamo presentato con un programma molto vario, nel senso che abbiamo la mostra degli originali dell'autore, che è Lucas, che la potete vedere in questa parte, poi quella delle icone di Proc. Abbiamo invitato specialmente, che noi l'abbiamo voluto, la nuova compagnia da Tamurro, agli Scaffati, cioè Napoli, con la presenza di Antonio Lione, ecco lì. E poi ci sarà la festa con musica che varia sia dall'Argentina al Nicaragua al rock and roll e il Senegal. Sarà un bel mix. Per questo, dopo di questo incontro ci sarà un documentario che presentiamo, il backstage di Garage Olimpo. È un backstage interessante perché parla dei desaparecidos, di Sarajevo e delle guerre in generale, e che in questo momento noi vogliamo puntare su questa cosa. C'è una guerra in corso contro un paese ovviamente del sud, e noi vogliamo parlare di queste cose. Io vorrei che Tommaso mi dia le sue impressioni, che cosa le ha sembrato questo Maradona supereroe contro gli Stati Uniti. Si prendono subito le difese di Maradona quando Maradona combatte contro gli Stati Uniti, anche se nel fumetto Maradona combatte contro Clinton. Oggi spiace un po' vedere Clinton trattato così, visto quello che è venuto dopo, capisci? Simpatia vanno addirittura per Clinton. La cosa però strana di questo sud di Maradona, sai qual è? Almeno quella cosa che mi sembra, è che quando ottiene il potere, cioè quando ottiene i soldi, la prima cosa che fa è copiare il nord. Perché Maradona, quando ha ottenuto i soldi, cosa ha fatto? Ha fatto un matrimonio terrificante, va in giro... Per i ciclibri l'anni. Ecco, per esempio, va in giro con le pellicce rosa, macchie... Ecco, per cui, oltre a prendere le difese del sud, dei poveri del mondo e in questo momento dell'Afghanistan, cioè il nostro interesse è quello, bisognerebbe forse più che altro insegnare a questo sud, noi che siamo dall'altra parte, pur non essendo tra i responsabili, tra il potere, non siamo il potere qui, diciamo, in questo nord, in cui ci siamo trovati a nascere, non siamo il potere, siamo i poveri dei ricchi in un certo senso. Quindi la cosa che dovremmo fare è insegnare a loro che non bisogna copiare quelli che vengono a portarti la liberazione. Io la cosa che ho visto in televisione adesso in Afghanistan, per esempio, che la prima cosa che hanno fatto, ci hanno fatto vedere la musica, eccetera, però è stato mettere le foto delle attrici nelle vetrine. Cioè, tra un anno a Kabul faranno il calendario della Marcuzzi, se qualcuno non va a dire che cosa bisogna fare, che cosa va accettato e cosa non va. Cioè, non è una posizione un po' di maestrino? No, non è di maestrino, è far capire che comunque... Loro sempre insegnano, no, quali sono le canzoni di Serrat. Ci sono degli errori comunque che loro non dovrebbero rifare. Cioè, l'errore di Maradona che si sposano 13 kg di diamanti e che ho del povero calciatore di provincia che diventa ricco all'improvviso, cosa fa un calciatore che il giorno prima giocava col pallone di stracci, non appena guadagna fama e denaro, cosa fa? Compra la Ferrari, si fa fotografare davanti. Per cui non so, non è fare il maestro, io trovo, è semplicemente indicare che bisogna fare qualcosa, dire al famoso sud del mondo, guardate che quando otterrete voce, quando otterrete un po' di potere, non dovete subito diventare come loro, anzi peggio. E quella cosa che ti dicevo c'è anche sul sito in questo momento, cioè che cosa manca? Manca l'interesse, manca la preparazione, manca l'insegnamento, non vuol dire fare il maestrino, significa semplicemente trasmettere un po' di cultura, avvertire. Cioè, ne abbiamo viste tante, quante volte sono successe queste cose? Cioè, lo stesso esempio di volte, le nostre storie d'Argentina insegna che una storia di 30.000 desaparecidos. Luego per salvare la faccia i militari hanno fatto una guerra contro l'Inghilterra per salvare due isolette che non esistono, cioè, dove lì tanti ragazzi sono morti, dove tante aziende lì, loro hanno aperto le porte al liberalismo, dove hanno praticamente comprato quel paese, sono paesi quelli di Latino America che sono quelli che conosco, rovinati. Io penso che là c'è tanto fragore, non so, tanta gente che vuole fare cose, ma non è possibile. E non credo che si viene uno e dice guarda, voi dovete fare così. Non credo che ci sia qualcuno che ci possa insegnare qualcosa. Gli errori ci sono, perché allo stesso tempo Diego Maradona è andato a vivere a Cuba in contrasto con il governo argentino. C'è la corruzione allargata che c'è lì, è terrificante. E lui ha deciso, sia a parlare male della FIFA, cioè, a dimostrare che a appoggiare Fidel, che se può essere d'accordo o no. Però in Latino America Cuba è un grande esempio, più che altro. C'è almeno un paese dove non muoiono 25.000 bambini di fame al mese, dove la sanità e chi ha soldi se la può pagare. E credo che Maradona ha fatto in questo momento una scelta interessante. E per questo noi non lo vogliamo celebrare, a chiaro, però dobbiamo dare questo omaggio a una persona che dà la faccia in confronto non dei poveri, sino anche delle classi medie, di tanta gente. Un'altra cosa che succede, no, con questo che lui dice del Fidel o non Fidel, quando dice possiamo non essere d'accordo, ed è che in realtà non abbiamo nessun modello con il quale essere d'accordo. Allora uno cerca di contestare per fare della contestazione un esempio a seguire, più che quello che ha scelto lui per contestare. Questo è lo interessante di Maradona, che lui contesta chiamando la gente a contestare quello che non gli sta bene. Lui sbaglia perché è ignorante, è nato in un posto molto povero, ha avuto una educazione molto elementare, che significa essere ricco e potersi fare tutti i piaceri che si fanno i ricchi. E questo, allora lui quando ha fatto il ricco ha detto, questo me lo ha guadagnato con il ginocchio, questo di gomma e questo dei lattici che mi hanno messo qua, e ha fatto tutto questo. Per quello, però lo fondamentale di lo che noi riscattiamo di Maradona non è la risposta concreta, perché lui anche ha detto il mio presidente a questo corrotto di Menem, quando è andato in galera. Noi siamo contentissimi che il presidente è in galera. Allora sicuramente la gente anche, questo è l'unica cosa che dice, non sa come mangiarlo, però la questione di lui fondamentale è che lui sempre sta contestando l'esempio contrario. E dopo lì veramente c'è una sinistra nella quale uno dice io alzo questa bandiera, e abbiamo smesso di alzare le bandiere per qualcuno, alziamo la nostra bandiera, lui alza la sua bandiera, e questo è un insegnamento. Per quello mi sembra bello che lo che lui ha fatto con il suo piede l'ha permesso a uno che è l'ultimo della pianeta Terra a dire la sua come una bandiera. Wow. E ma lo ascoltano però, quello voglio dire, ma allora hai seguito? Sì, molto seguito. Anche quando dice queste cose, anche quando sì. dice il presidente, mio presidente, quando si fa il tatuaggio del centro. Sì, sì, penso cioè, nei paesi latini americani, questo grande perché c'è tanta gente che poi vede l'icona Che Guevara sul braccio di Maradona. Si comincia a chiedere chi è quel tipo, e Maradona quando le chiedono chi è quel tipo lui dice è l'unico eroe argentino esistente, cioè quando noi abbiamo tradizione di eroi reazionari, fascisti, è un fumetto di carne e ossa praticamente, è proprio un fumetto. Però non è un pericolo, cioè lui quando facciamo l'esempio del Che, quando lui vede vedono il tatuaggio del Che dicono chi è quello e lui dice è l'unico eroe che abbiamo in Argentina, perché qui da noi non c'è nessuno che lo dice. Sai cosa ho visto io? Ormai 2 anni fa, sul treno, era un treno che veniva da Foggia, l'ho preso a Bologna, per venire a Milano, c'erano 2 ragazzi davanti, avevano avuto 17 anni, uno aveva la spilla di Alleanza Nazionale e sotto la spilletta del Che. Allora ho detto, forse non ci vedo, ho cominciato a guardare bene, erano veramente Che Guevara e l'Alleanza Nazionale. Allora, non ce l'ho fatta, ho detto, senti, scusa, toglimi la curiosità, come fai a portare la spilla di Alleanza Nazionale e la spilla del Che? Il ragazzo mi ha detto che al mio paese, era un paesino in provincia di Foggia, tutti votano a destra, quindi sono anch'io di destra, però nella destra non abbiamo degli eroi e allora mi sono messo la spilla del Che. Cioè, questa era la preparazione politica. La mancanza proprio di quello dico io quando bisogna insegnare, cioè non andare a destra, c'è che vai in alto, no, dire guarda, ti stai sbagliando, hai un momento di confusione mentale. Beh, l'eroe dei lavoratori argentini è il generale, però. È un generale, è assurdo. L'eroe dei lavoratori italiani l'hanno messo a fare il primo ministro, il presidente del Consiglio, per cui non cambia molto. C'è il peronismo. Tu scrivevi, cioè, nella prefazione, che Maradona ti dava l'impressione di essere una macchina di guerra, cioè, non come Pelé o come Ronaldo, no? Su questo punto vorrei che... però non posso fare specifiche calcistiche perché... No, a livello iconografico. Come si gioca, sono fermato un'analisi iconografica. Cioè, a livello... Cioè, perché qua... Cioè, mi dava l'idea, noi... mi dava l'idea che Pelé, almeno da quello che ricordo, era quest'uomo molto elegante, un po' distante, questo, un atteggiamento un po' più aristocratico. Me lo ricordo, io Pelé non l'ho mai visto giocare, non seguendo il calcio. Me lo ricordo solo sotto la doccia mentre si faceva... si metteva questo profumo che lui pubblicizzava, diceva che piaceva fare le cose fatte bene e allora si faceva questa pubblicità. Invece un personaggio come Ronaldo mi dà l'idea veramente di fragilità. Ma molta fragilità, cioè sta 2 anni per recuperare, poi gioca un quarto d'ora, cade di nuovo, si rompe, e anche forse il fatto di porcellana. Invece Maradona, forse anche per la sua conformazione fisica, mi dà l'idea di questo schiacciasassi, questa macchina che va avanti, che non si ferma né sul campo né fuori, poi ha problemi di tutti i tipi, figli illegittimi, tasse non pagate, non si sa bene quanti ne ha, però lì avanti continuamente, non c'è nulla che va contro la FIFA, va contro i governi, va che... cioè, sì, va, diceva, non si limita, cioè sono quei personaggi americani, perché ti vedi, sì, sì. L'ultima cosa che ha fatto prima della partita era la maschera di Bin Laden, il turbante. Lui sempre cerca di contestare, con gli americani, anche con andare da Cuba, curarsi la prima volta, allenarsi. No? Ma ora abita Cuba. Questo fumetto c'è proprio rispecchia il lato fumettistico, questo di Maradona, c'è esagerato con donne, iperdonne che lui cerca. Con tanta ricchezza e da un'altra parte difendere gli interessi dei disperati, come si dice nel fumetto. Tu, cioè, negli ultimi anni hai studiato molto l'iconografia, no? Cioè icona, Maradona, in Italia, cosa ha significato? Ha significato per una parte d'Italia. Una parte d'Italia. Perché lui purtroppo si è legato proprio alla squadra del Napoli e allora si è limitato tutto il resto del paese, perché erano uno stava a parte di una squadra e gli altri tifosi si mettevano contro. Per cui anche magari se lo rispettavano, come che il calciatore era pur sempre, aveva sempre la maglia di un'altra squadra. Ha significato forse qualcosa che tutti invidiavano le altre squadre, perché non potevano averle. Però io penso che non avrebbe mai potuto giocare in nessun'altra squadra se non a Napoli, perché c'è già questo legame molto, molto forte. Però c'è, cioè, lui allo stesso tempo come un'icona è diventato come quasi un Che. no? Cioè, ha un contesto anche sociale. Sì, è quello che dicevo prima, cioè Maradona, cioè il Che ti libera mentalmente, ti libera socialmente, ti riscatta. Il riscatto di Maradona per il papà di bambini a Napoli come a Milano era: diventa come lui, facciamo i soldi. Cioè, era quello il messaggio purtroppo che è arrivato. Per questo di quando sento dire che lui va contro gli americani, va contro il potere, va contro la fine. Contro se stesso. Va contro se stesso, però alla fine mi resta sempre in mente questo carro, cioè il genitore che dice devi diventare come lui. Qua ci sono ragazzi di Napoli, cioè, volete parlare, dire qualcosa sul Maradona? No, non ci interessa. No, non ci interessa. Basta, lo avete sofferto troppo. La vuoi dire? Maradona è stato anche due scudetti del Napoli, gli unici due. Uno. E l'arte di giocare a pallone. Io non seguo il calcio, però quando giocava Maradona io che devo fare? Un artista. Cioè, con qualcuno del Te Deum, no, che avevano fatto a Napoli, avevano detto che era il Baudelaire del, cioè, il calcio. Non so, avete qualche domanda da fare, qualcosa da dire? Sempre, eh? Passiamo ad altro. Tommaso, vuoi richiudere un po'? Vuoi... Vi manca Maradona adesso a Napoli? Se torna e... Ma torna per giocare? Allora si preparerà per ritornare. Sì, ma non lo fanno ripartire, penso. Se lo fanno provare. E arriva a Roma con 50 guardie poliziesche. Io non so, viene proprio un caso nessuno. Di Maradona ancora è nella vita. Sì. Mi pare ancora di sì. Non lo so, ho fatto poco. E lui è il teatro Antidoto Talento, che c'è dopo il documentario, lo potete vedere. Sai, no, l'ultima cosa veramente, la cosa che forse mi è piaciuta di più Maradona è proprio l'ultima negazione che lui ha fatto, quando vediamo queste cose terrificanti, gli striscioni, la droga contro il calcio contro la droga, e poi arriva il bambino sul campo con la colomba e fanno vedere che non può essere, e lui invece è ok, nuova. Eppure, nonostante ciò, grande giocatore. Per cui le due cose non si annullano, evidentemente. Cioè lui, secondo la stessa dichiarazione, ha detto che mai per giocare ha tirato. C'è due giochi prima, cioè domenica sera poteva fare quello che voleva, cioè prima è impossibile, perché il suo genio era quello, c'è questo genio maledetto, no? Che è particolare, io penso come tanti artisti dell'Ottocento, anche del Novecento, tanti, no? Questo genio che loro danno nella loro arte tante cose, dopo la sua vita privata è un'altra, cioè io non so di che lei mai... dico Armando Maradona per la sua vita privata, non mi interessa, io voglio giudicarlo solo per quello che ha dato alla gente, anche penso che a Napoli, per quello che devo qualcosa, ha dato quasi un riscatto a Napoli dentro dell'Italia, cioè, questo è un, più una domanda che una certezza mia, perché in quegli anni non ero qua in Italia, e credo che in questo senso è stato un grande. E come tu ben hai scritto nella prefazione, ci sono due cose per un essere umano da aspirare, la beatificazione o la fumetizzazione. Siccome la prima è facilissima, visto che il Papa sta beatificando Raffica, è molto più difficile diventare invece personaggio dei fumetti, e Maradona è successo. E questo succede a una persona che ancora è vita, credo che è un'epoca di grande. Cioè, questa è la scusa che usiamo oggi per parlare di lui, perché dietro di lui c'è un sud, qualsiasi esse sud sia. E noi stanotte vogliamo festeggiare questo. Ci vuoi concludere con qualcosa? Vi ringrazio a tutti e godetevi la serata. Ciao, grazie.